Benvenuti al quarto episodio di Mizu Segone Ask the Maker, episodio numero 4. Stiamo andando, stiamo aumentando e non stiamo scendendo, e questo già è un ottimo fattore. Ci siamo tutti, sì, ci siamo tutti. Ci Per siamo, ci fortuna siamo. c'è VarioPunk, eccomi qua, Scar the Pumpkin, Collegato alla wifi del proprio NES. direttamente da Bombay a mare, Rixka. Ciao. E da Vice City abbiamo in collegamento Gira 93. No. Mi sa che il collegamento con Vice City è saltato. Mentre i tecnici, Tecnici, ma che tecnici? mentre i tecnici lavorano al ricollegare Gira, noi proseguiamo con l'introduzione dell'ospite di oggi, che è una figura leggendaria dell'Olimpo dei game making italiano. Abbiamo avuto Dark Leo, che con la sua vastissima produzione, abbiamo Il avuto famosissimo il Marius, famosissimo Marius, poi l'anonimo. abbiamo avuto il fantastico ospite misterioso, e questa volta abbiamo il precursore di tutto questo, praticamente, perché Il padre di tutti i game maker. no, però in Italia è uno dei primi e dei più produttivi, soprattutto. Ovvero il creatore e fondatore della Pastor Arts, Kug. Salve! Salve a tutti. Ci Riemerso dalle ceneri, sparito da anni, eccolo qua. sono, ci sono. Più che altro mi ero persino dimenticato di essere quello che sono, però alla fine dalla propria natura un uomo non può fuggire, no? Sì, esatto. È tipo l'episodio di un telefilm a una stagione avanzata che il protagonista perde la memoria per prendere un po' di episodi, no? Sì, come beh, ci fece un'intera stagione Magnum PI su questo. Esatto, a te è tornata la memoria e sei pronto Oh, a stagione. riconquistare il tuo trono. Volevo anche far presente che mi hanno trovato tra una comunità di Amish, quindi io sto chiamando con un telefono a manovella, quindi sta Immagino un po' la barba che impegnato. avrai in questo momento. Infatti è abbastanza pronunciata, molto più di quello che si vedeva nelle Intro. mie autoillustrazioni del tempo. Anche le basette non scherzano. Bene. Sì, anche le basette. Ok, no, di quello che volevi dire sulle basette. Ah no, cosa volete che dica sulle basette? Adesso sono tutt'uno con questa specie di Sono evoluzione. unificata la barba Sì, esatto. e fanno scuola propria. Bene, bene, bene. Kug, come abbiamo già detto, è uno dei game maker più prolifici che l'Italia ha avuto. E soprattutto è importante perché in quegli anni lì, in cui in Italia nessuno faceva un cavolo, si può dire, lui proponeva i suoi lavori senza, così, a rotta di collo, senza paura di quello che la gente gli avrebbe detto. Diciamo, eri un pioniere, eri. Sì, oddio, ero un pioniere. C'erano anche altre persone che facevano giochi. Diciamo che quello che notavo io era che si univano in corporazioni sotto forma di forum, in cui vedevo che le attività erano soprattutto per far chiacchierare sul forum, fare discussioni di game design, parlare molto del sesso degli angeli, se vogliamo, no? C'era la gente che si metteva d'accordo, cioè faceva proprio veramente dei grandi discorsi sui massimi sistemi, sul gioco perfetto, il gioco parametro. Io mi ricordo c'era il tormentone del gioco parametro, e alla fine non è che si producesse poi tanto. C'era questa mentalità un po' stoica, no? Questo, Sì. ognuno aveva il grande progetto che inseguiva perennemente per tutta la vita, e sti cavolo di grandi progetti non uscivano mai. Io, che se vogliamo, mi posso definire al tempo che è più epicureo di loro, io speravo a finire le cose, anche perché, sinceramente, a stare tutta la vita su un gioco io mi rompevo un po' i marroni. Giusto. Perché, comunque, fai questa cosa che non vedi l'ora di fare uscire, perché è chiaro che io, diciamo che i giochi li facevo soprattutto per me, non tanto per gli altri, per compiacere gli altri, o per cercare una fama che comunque, se c'è stata, è stata sempre di nicchia. ma lo facevo per me, perché comunque quando io facevo un gioco, i giochi che facevo erano ispirati comunque sul modello di giochi che mi piacevano e che erano comunque molto rari come genere. Io adoravo i giochi cosiddetti multi-evento, no? Ma non parlo dei giochi sportivi come gli Hyper Olympics o Track and Field, che è comunque la stessa cosa, e che comunque ho fatto un clone di Hyper Olympics, che è le Olimpiadi dell'ufficio. E a me piacevano moltissimo i giochi della Cinemaware, quelli con un sacco di sottosezioni, arcade, una framework di tutto il gioco, strategico, un po' adventure, tutto assieme. A me quelli facevano impazzire. Star Control 2, ad esempio, che è un adventure spaziale con sequenze arcade, che è anche, secondo me, scritto nel migliore modo possibile, perché ovviamente dalla puzza, come si dice dalle mie parti, anche a opere letterarie, l'aveva anche scritto bene, era un misto di adventure, arcade, esplorazione, strategia, che insomma era veramente un caso unico. E quello che mi spingeva soprattutto a fare giochi, almeno da un certo punto in poi, quando i miei giochi hanno iniziato ad essere abbastanza qualcosa di più che un semplice esercizio di programmazione con due cazzate demenziali scritte sopra, e io lo facevo perché volevo per me i giochi che al tempo non c'erano, perché erano la fine degli anni 90, si stava scoprendo il 3D, a me il 3D ha sempre dato problemi di stomaco. Beh, è giusto così, Sì, sì. Pensare. Non ti sento più, mi sa. Anch'io. Sto prendendo un sigaro, scusate. Ah, ok, addirittura. Nel tuo ufficio sul grattacielo, con la vetrata che vedi la città dall'alto. Sì, qualcosa del genere. Okay. Ovviamente sarà un sigaro in 2D. Chiaramente un sigaro in 2D. Adesso, se volete, indosso anche il fez rosso. Oh. E la giacca da camera. Io starei attento alle cos'erano? Alle foglie. Cos'è un foglie che cadono dal cielo che ti trasformano in procione, no? Cos'era quella roba che ti trasformava in procione? Foglie? Sì, erano foglie. Foglie. Vabbè. Ma che attinenza ha la foglia col procione? Vabbè, andiamo avanti. Ti abbiamo interrotto mentre parlavi del fatto che la tua produzione era influenzata dal fatto che il 3D a te non va molto a genio. Sì, non mi è mai andato a genio, io, a parte che mi perdevo, poi veramente mi dava fastidio proprio lo stomaco. Quindi, poi sinceramente, visto che era l'esplosione, stiamo parlando della fine degli anni 90, dicevo, inizio anni 2000, esplosione di cloni di Doom come se piovesse. Quindi, poi uscì il primo Half-Life, che tutti dicevano che sarebbe stata una grandissima cagata, e invece tutti osannavano Sin e nessuno si ricorda di Sin. Sì, vado a vedere cos'è. Infatti non lo conosce. Un gioco era famoso perché la cattiva aveva le tette grosse. Ah. La cattiva? Sì. La cattiva di Sin. Eccolo qua. Ah, ma parla, non dovete aspettare me. Ah, no, sì, è che uno visto. Che farebbe diventare famoso questo tipo di giochi. L'ho visto. Visto? Lo conosco. Insomma, io comunque, insomma, io a queste cose non riuscivo a giocare. Poi, diciamocelo, mi divertivo di più a farlo io il codice del gioco, scrivere il codice, a fare il gioco, e che poi, chiaramente, man mano che facevo sempre giochi nuovi, scrivere il codice non era più abbastanza, allora ho iniziato a metterci la grafica, a metterci le musiche, e alla fine, per esempio, diciamo che l'apice l'ho toccato con SimBrother 3069, che è veramente completamente fatto da me, per quanto si possa dire fatto da me, un gioco la cui grafica è realizzata con un tool chiamato Poser, che non so se esiste ancora, in cui c'erano dei modelli 3D prefatti di esseri umani completamente vestibili come una bambolina, come una Barbie, no? E però, per quanto possa sembrare poco virile questa cosa qui, era molto utile perché ti facevi la grafica molto facilmente. Io sono un pessimo grafico, E quindi di necessità ho fatto via tu e la grafica l'ho fatta con quello, e quello diciamo che è tutto completamente figlio mio, ecco. Sì, Poser esiste ancora ed ha raggiunto anche livelli molto più dettagliati. Più che altro lo usano per fare i giochi pornografici, però da quello che Ah beh, quello è ovvio. D'altra parte, la prima, cioè, sin dalla primissima versione, lo scopo non dichiarato ma evidente di Poser era quello di prendere le donnine nude e metterle in È posizione. arrivata alla 9. Ah, beh, io se non sbaglio, ma potrei sbagliarmi, l'avevo fatto con il 4, quindi questo vi dà un'idea di quanti eoni fa parlassimo, ecco. Il 4 mi sa che è freeware addirittura. Cioè, sì, è no, è shareware. No, Vabbè, comunque, insomma, diciamo che con SimBrother 3069 e l'Office Olympics, e tu. quei giochi li ho fatti interamente io. Ecco. Poi Sì. ce ne sarebbero stati degli altri, che anche quelli li avrei fatti anch'io, però diciamo che la mia vita ha preso una strada un po' diversa, e lo dico completamente senza malinconia, però, capita, no? A un certo punto si cresce e non si ha più tempo per certe cose. Sì, certo. Anche perché alla fine era rimasto un hobby per te, non era una professione comunque, quindi. Sì, oddio, ho cercato di capitalizzare. L'ultimo vero gioco Pastorez non è uscito con l'etichetta della Pastorez, ma è stato venduto da una società indie finlandese. Gli ho dato tutto quanto, tutto, anche la proprietà intellettuale gliel'ho lasciato, perché alla fine c'erano state un po' di divergenze, allora non lo sentivo più mio. E questo gioco si chiama The Butler Did It, Debat. Ok. The Butler Did It, cioè l'assassino del maggiordomo, ed Sì. era praticamente una specie di Cluedo, cioè un adventure, tipo un gioco adventure a tema giallo tipo Agatha Christie, con tot persone, una decina di persone, se non sbaglio, chiuse in un ambiente isolato dal resto del mondo. In questo caso era una villa in montagna, che era stata bloccata in seguito a una forte nevicata. Uno di questi moriva e tu, guarda caso, eri l'investigatore che era stato invitato in questa villa, e cercavi di indagare su chi fosse stato l'assassino. E guarda caso, l'assassino non era mai il maggiordomo. Questo lo dico perché la peculiarità del gioco era che il morto, l'assassino e il complice erano ogni volta random, quindi era anche carina come idea, secondo me, però diciamo che forse per come era fatto il gioco era diventato troppo, cioè, troppo poco giocabile, secondo me, un po' frustrante, un po' difficile, un po' troppo basato sul caso, ecco. L'ho trovato, belle le immagini. Le recensioni che ha sul sito che ho trovato sono al massimo, praticamente a 4,5 su 5 e costa 20 dollari, mi dice. Sì. Questo gioco qui, diciamo, ci hai fatto dei soldi? Ce l'hai venduto te alla fine o No, l'ho l'hai proprio. distribuito con questa casa di produzione indie. Sì, l'avevo pubblicato con il loro nome. Infatti, il logo Pastorez non c'è, se lo comprate. Insomma, avevo preso un po' di proventi all'inizio, finché era mio, ma adesso non gliel'ho venduto completamente, proprio abbiamo preso strade diverse. Ah, Però è ok. stato un po' un successo sto gioco. Ma oddio, io non so quanta gente l'abbia comprato, non l'aveva comprato moltissima gente al tempo, però non vi so dire, ragazzi. Tutto, per me è una vita passata, però se mi dite che piace, ma magari sono anche molte recensioni su certi siti, soprattutto quelli di shareware, perché alla fine era distribuito col metodo shareware, no? su molti siti shareware molte recensioni sono fatte, come dire, sono un po' falsate, ecco. Sì, ma dai, non ti autodemolire. Togliere no, dei no, meriti. No, no, no, ragazzi, lo so perché lo faceva l'altra persona, quindi... Ah, ok. Però adesso, tanto che ti stiamo sforzando la mente con i ricordi, torniamo ancora più indietro. Dici come hai iniziato proprio. Ah, beh, allora, io ho iniziato... Allora, prima di tutto... Il nome della Pastorex è perché al tempo tutti noi giovani nerd ci pasticciavamo con una rivista chiamata The Games Machine. Esiste ancora? Sì. Sì, però esce solo senza videogioco adesso. Ma anche al tempo usciva senza videogioco? O forse no? Boh, sì, ma ha avuto degli anni in cui usciva senza videogioco, poi tornava e adesso sembra definitivamente solo senza. Però no. Esiste ancora. Vabbè, comunque questi qua... Vabbè, al tempo faceva molto ridere, oppure eravamo noi che eravamo un po' più scemotti, però stiamo parlando del 1996, io ero in prima liceo e insomma c'era una professoressa di fisica, che saluto se mai sentirà, che stava un po' sulle palle a tutti quanti, no? Perché era la classica persona con l'elasticità mentale di un blocco di granito, poveretta, perché lei chiaramente faceva il suo lavoro senza entusiasmo, immagino non fosse particolarmente gioiosa della sua situazione lavorativa, e la cosa si rifletteva sul suo metodo di insegnamento. Poi al tempo non lo potevamo capire, e quindi si sprecavano i puttana, mignotta, stronza, vacca, bestia. Okay. Bestia era il più bello. Ah sì. Non è male, in effetti. E allora, praticamente, siccome io facevo il liceo scientifico con l'indirizzo PNI, cioè Piano Nazionale Informatica... Sì. Che hanno abolito tipo... Ah, davvero? Sì. Sì, due o tre anni sono. Due o tre anni sì, fa. Si saranno resi conto che l'informatica che ci facevano fare era un'ora alla settimana di laboratorio a programmare in Pascal o a studiare funzioni con Lotus. Sì, lo sa, perché c'è la nostra cugina, sia mia che di Wario, che fa il PNI ed è stata una delle l'ultima annata a riuscire ad entrare in questo corso. E lo fa ancora. È contenta? Boh, penso del di Pascal sì. Non credo tanto. Esatto, del Pascal no, però penso complessivamente sì. Non vada male. No, noi facevamo la... Insomma, io mi ricordo questa cosa dello studio di funzioni fatto con Lotus 1-2-3, che era l'antesignano su DOS di Excel. Quindi facevamo i grafici praticamente, no? Mm-hmm. E questo era uno. Poi facevamo Turbo Pascal, poi facevamo... le costruzioni geometriche con riga e compasso con un software chiamato Cabri, che non so se lo conosciate. No. Ma vabbè, comunque faceva cagare. Ok, l'importante è questo. E soprattutto si giocava a QBasic Gorillas, questo era un po' l'attività che si faceva, anche perché ai tempi questi computer erano IBM PS2, una roba degli anni 80, che non avevano internet, quindi non potevamo neanche andare a vedere... non potevamo neanche andare sui siti porno di allora e scaricare delle PCX a 320x200 con cui consumarci le diotrie. Vabbè, parliamo degli anni 96, no? Sì, infatti erano i tempi in cui davano il dischetto di video online con Topolino, no? Quindi... Sì, e internet costava tipo più di 100.000 lire al mese. Esatto, roba che... Meglio, cioè veramente si rischiava di essere diseredati. Sì. E vabbè, praticamente noi avevamo questo assistente di laboratorio, quest'uomo canuto con una barba un po' tipo la mia, infatti io mi sono fatto crescere la barba proprio in suo onore. Chissà chi è, io so chi è. E questo qua aveva un nome piuttosto romaneggiante che noi lo chiamammo Vitruvio. Noi lo chiamiamo Vitruvio perché, non mi ricordo, perché penso perché guardando nelle sottodirectory di uno di quei PC avessimo trovato un ipertesto per DOS sull'architetto romano Vitruvio, quello che disegnò. Sembra la leggenda sull'invenzione del nome di Guybrush Threepwood. Sì, beh, oddio, un po' meno di successo, ma qualcosa del genere. E vi giuro che non ho idea di come... Adesso, vabbè, io ve lo dico, il tizio si chiamava Vittoriano, era un personaggio fantastico e gli volevamo veramente bene perché... Cioè, è il tecnico di laboratorio. Come si fa a non voler bene al tecnico di laboratorio? Praticamente è un bidello che smanetta coi computer, veramente. Il minimo, poi. Ragazzi. Sì. E quest'uomo si esprimeva soltanto a grugniti, praticamente questo continuo brontolare, no? E si vedeva che quando questa professoressa poveretta diceva ah, non va il computer, e lui sentivi che diceva capito? E una volta mi ricordo un episodio che per qualche strana ragione saltò il salvavita, e allora io incurante di questa cosa riaccesi l'interruttore, accesi di nuovo il computer e il quale fece un rumore stranissimo e uscì un filo di fumo dal case, no? Ottimo. Da questo episodio nacque la leggenda di Vitruvio, perché ci fu lei che si mise a duellare e arrivò questo qua incazzato, grugnendo, perché si vede che fa il centesimo caffè della mattina, e va dicendo oh no, questo lo buttiamolo via, insomma. Mi era molto piaciuto, era piaciuto a tutti in realtà, come mai, cioè come quest'uomo avesse gestito, con quale polso avesse gestito questa prof, che effettivamente, poveretta, non era colpa sua, però era una discreta rompicoglioni. Tutto questo per dire che siccome la prof, la sovremenzionata prof, era una puttana, stronza, bestia, mignotta, eccetera, per noi, cioè chiaramente noi sbagliavamo perché non la capivamo, per noi Vitruvio era diventato l'idolo. E allora, io che comunque già da più piccolo avevo studiato benino il Pascal, e creai questa specie di gioco adventure a menù, tra virgolette, sul nostro tecnico di laboratorio. E lo diedi ai miei compagni di classe che dicevano ah, sei troppo un figo, Kug, anche perché ai tempi, cioè quando hai tipo 14 anni, pensi soltanto a una cosa, giusto? Sì. Sì. E chiaramente, visto che io venivo da un paesino piccolino in cui non è che le ragazze fossero proprio belle, Già. Nei paesini la percentuale di cesse è alta. Esatto, vedo che ci capiamo, ragazzi. Insomma, andare verso la grande città e vedere che comunque ci sono delle ragazze che... Cioè, ci sono delle femmine che non sono al di là di un tubo catodico, che non ti ispirano soltanto la voglia di prenderli a calci nel sedere, è una cosa che nella tua mente idiota di 14enne, perché a 14 anni, ragazzi, si è idioti. Ma certo. Si è veramente idioti. Riccardo, tu non hai più 14, vero? No. No. Hai 16. Comunque, adesso, Riccardo... crescerai, sì, anche tu e te ne renderai conto. No, cioè, ma lo so. Passiamo tutti, ragazzi. Cioè, non c'è niente di male, anzi, io lo sto dicendo serenamente con voi, dico, cioè, lo racconto a voi, lo racconto alla mia famiglia, lo racconto alla mia morosa, che è una persona meravigliosa e non sapeva neanche che io fossi il patron della pasta finché gliel'ho detto stasera, che mi intervistavano dei ragazzi. Ti ho costretto a confessarlo. No, ragazzi, che me ne ero dimenticato. Cioè, io, perché se, ecco, questo spiega che il Kug 14enne andava dalle ragazze facendole vedere, ho fatto questo videogioco sperando di fare colpo in qualche modo. In realtà non era solo per questo, mi piaceva. Cioè, era bello fare un'opera creativa in cui vedi l'idolo di tutti noi scolaretti che si prende... Le nostre vendette nei confronti di una prof che tutti odiamo. Questa era la prima ragione. Poi comunque chiaramente vai lì, ragazzi, ah, guarda, ho fatto questo, e chiaramente cosa potrete intuire? Che non è che ci fai la figura del tombeur de femme, no? Sì. E mi sono perso. Aspettate che mi riaccendo il sigaro. Io mi sono perso a tombeur de femme. Ah, vabbè, comunque per concludere, avevo fatto questo gioco, fatto a menù in grafica, fatto con la grafica con il set di caratteri ASCII, E insomma aveva avuto questo successo, un discreto successo, ma solo all'interno della mia classe, che erano 20 persone, no? Mm-hmm. E allora, insomma, lì l'ultima cosa che pensai quando feci Vitruvio fu dare il nome alla software house, perché chiaramente se mi avessero beccato non è che avrei potuto dare il mio nome completo, no? Certo. E anche se insomma sarebbe stato abbastanza facile ricondurlo a me, però. E allora, siccome c'era stata questa rivista The Games Machine, in cui c'era una rubrica chiamata Borabyte, in cui c'era una persona vera o fittizia chiamata il pastore, che faceva ridere noi tutti, perché era questo qui che parlava con le vocali allungate, era la parodia del fanatico dell'hardware nuovo sul PC, perché lui, mi ricordo che lui non faceva altro che aggiungere periferiche inutili, overclock, queste cose qui, per il suo PC professionale, no? E allora tutti impazzivano. Allora ci fu qualcuno, non fu un'idea mia, infatti, fu un ragazzo, il suo nome me lo ricordo anche, credo si chiami Marco Jäger, che mandò a questa rubrica Borabyte un fotomontaggio di Monkey Island 2 in cui Guybrush aveva un po' le fattezze di questo pastore e parlava con le vocali allungate, no? E allora fece il fotomontaggio Pastorals. E allora io lo feci mio. E io successivamente ho contattato questo Marco, gliel'ho detto, e insomma è finito tutto tra luci e vino, amicizia e quant'altro. E così è nata la pasta. Cioè, c'è stato Vitruvio, c'è stato il suo seguito, Mr. X, che non ha avuto lo stesso successo, perché Mr. X era un bidello della scuola che frequentavamo, che era l'amico, un po' il sidekick, se vogliamo usare l'anglicismo, di Vitruvio. Però non aveva il suo carisma. Era la spalla di Vitruvio. Sì, non aveva il suo carisma perché non aveva la sua barba, alla fine. Questo è il concetto di fondo, quello che ho capito adesso. E poi soprattutto non aveva più l'alone di leggenda che era Vitruvio, perché Vitruvio, tra la prima liceo e la seconda, se n'era andato via, anche perché scoprimo che si faceva 40 km di macchina dalle montagne tutti i giorni per venire a scuola. E quindi, insomma, chiaramente sparì misteriosamente. E insomma ci rimanemmo tutti molto male. Con l'alone di leggenda che si lasciò dietro. E poi ci fu Mr. X, ci furono altri giochini in Turbo Pascal veramente trascurabili. Ci fu una cosa che fu pubblicata su The Games Machine nella rubrica che mi pare si chiamasse Talent Scout, cioè quei ragazzi lettori che inviavano i loro videogiochi alla redazione. E per fare un po' di paraculismo, ha detto anche captatio benevolenze, mandai un gioco, fatto un gioco misto, il primo vero multievento, se vogliamo, che si chiamava Baron Bossetti's Way of Flying. Questo Bossetti era un recensore di TGM, un redattore, che era specializzato nella recensione di simulatori di volo. E allora per chiamare il barone, allora c'erano tutti i meme, tutti i tormentoni di quella rivista, e insomma è comunque una cagata, se vogliamo, cioè veramente non era bello. E è stato uno dei primi giochi che non ho fatto soltanto in Pascal o Delphi o Visual Basic 6, perché al tempo era quello che usavo, ma è stata la prima volta che ho usato un vero tool di sviluppo. Nella fattispecie era il Div Game Studio, non so se lo conosciate. Cosa? Game Studio? È Div Game Studio. No. Era uscito in edicola, era una produzione spagnola solo per DOS, che non era affatto male, anzi, era una suite interessante, perché aveva un linguaggio che era molto simile al C. Penso al C, sì, non al C++, perché non era d'oggetti, e aveva un editor di grafica, di sprite incluso, includeva alcuni simpatici effetti, comunque riusciva a fare delle cose fatte anche benino. E successivamente ci ho fatto con Div Game Studio Banffas from Outer Space, che anche quello voleva essere il mio tributo a Star Control 2. Sì. diciamo che siccome non è anche quello, secondo me, non è venuto benissimo perché era veramente troppo una dichiarazione d'amore nei confronti di quel gioco, quindi era, volevo omaggiarlo un po' troppo, però c'è stato chi l'ha veramente amato più di tutti. E quello era carino perché anche quello, come Star Control 2, appunto, era veramente multievento, nel senso che c'era parte di adventure, c'era parte di navigazione, una vaga parte di strategia, molto arcade, e alcune sottosezioni uniche per alcune fasi salienti del gioco. Cioè, carino, però dei miei preferiti sono altri. E poi, ecco, c'è stata anche la vera svolta, secondo me, di successo, è stata Quest for the Toilet. Quest for the Toilet è nato quando avevo trovato un programma molto carino che scrive. Cioè, era una IDE, un tool di sviluppo per giochi in linguaggio AGI, quello della Sierra, dei primi giochi, Sì, prima del primo Lerby, insomma. di passare al VGA. Esatto. E insomma, avevo fatto questo gioco, Quest for the Toilet, chiaramente iniziato come una stanza di prova, che poi sono diventate due, che poi sono diventate tre. E insomma sono diventate alla fine quelle 7-8 stanze che è Quest for the Toilet. E quello è stato il primo vero barlume di successo al di là della mia cerchia ristretta di amici e delle persone di TGM che effettivamente sì, tutti, carini, tutti a dire sì, carino Baron Bossetti, ma cioè, non è che ci fosse dietro qualcosa di veramente giocabile. Quest for the Toilet era abbastanza giocabile. Era un po' l'esercizio Larry italiano, dai. Beh, sì, oddio, in realtà il disco Sweet Larry italiano vero si chiamava Masos Great Game, Masus? Masos Great Game, Adesso praticamente, vado a guardare. ah, non, tu non lo troverai perché quello era un altro gioco della Pastorals, sempre fatto in Pascal con la grafica del DOS, e molto simile a Vitruvio, in cui un mio compagno di classe, appunto Maso, andava in giro per il mondo, in realtà ce n'erano due di questi giochi. Uno in cui andava in vacanza su un'isola e cercava di fare sue le turiste, in un altro invece andava proprio in giro per il mondo, questo qui. E questo nacque quando questo ragazzo qui mi disse che la sua vita sentimentale era come un origami perché era tutta fatta di ripieghi. Questo lo disse in maniera molto, un po' triste secondo me. E allora, non lo so, mi scattò in testa qualcosa e fece un gioco su di lui. Non so se mi abbia mai veramente ringraziato oppure ricoperto di insulti per questa cosa, però. Ma l'avevi rilasciato questo gioco? L'hai tenuto? Penso che fosse stato rilasciato nella prima versione del sito della Pastorals, quello che era su Fortune City. Ragazzi, mi state facendo ricordare tanta di questa roba che. Sempre memoriamo, attenzione. Ma infatti in ogni tuo gioco ho visto il sito che viene, che c'è all'inizio cambia il provider lì. C'è Sì, stato su Altervista, su. sì, beh, Altervista era stata una situazione di emergenza perché per la maggior parte del tempo la Pastorez è stata ospitata da Emuita, il portale che adesso non so se esiste ancora, che era il portale italiano degli emulatori. Siccome avevano l'aspetto di retro gaming, avevo scritto anche qualche puntata di una rubrica chiamata L'ora di Kug su Emuita, in cui parlavo dei giochi vecchi per DOS, e in cambio mi ostavano il sito. Poi c'era stato un periodo di downtime lunghissimo e quindi proprio in concomitanza con l'uscita di Office Olympics XP, e allora nel frattempo per condividere Office Olympics, non dimentichiamo che al tempo avevo il modem a 44, insomma, avete capito, Sì. e l'avevo messo lì sopra, cioè non è che potevo inviare via Andavi a Dropbox. 8 byte al secondo. Esatto, quindi insomma anche lì diverse ore, fortuna avevo già la fretta al tempo. E quindi Quindi sì, creai quel sito di fortuna in cui, se non sbaglio, c'è l'immagine di Vitruvio in mezzo alle pecore. Sì, sì. E lo pubblicai prima lì. Poi successivamente riaprì Emuita, poi è morto definitivamente. Poi c'è stato un periodo, un paio d'anni fa, che è stato il sito è stato ospitato su quello che era stato per un po' il mio sito personale, Messier Le Coug. E quello l'ho visto, però l'ho visto 2 anni fa, tipo, mi sembra. Esatto, poi è scaduto e non ho avuto voglia e tempo di riaprirlo, anche perché pensavo che chiunque si fosse dimenticato della pastorale. Sì, invece, ragazzi, invece io ti obbligherò a rimettere online tutti i giochi in un modo o nell'altro. Va bene. Quest for the Toilets abbiamo già pensato, ma devono tornare tutti. Poi, ecco, beh, poi non so quale secondo voi sia il successo maggiore, però quello che ho riscontrato io tra i tra virgolette fans è che il successo maggiore comunque l'ha avuto Lord of Inkaking, anche sì. Perché è l'unica trilogia dei giochi che ho fatto, quindi una ragione ci sarà. Ma anche credo sia l'unico gioco italiano, il primo, fatto con RPG Maker 95. Con RPG Maker 95 in Italia credo non abbia fatto niente nessuno, credo. Davvero? 95 no. Beh, non l'avrei detto, beh. Hai fatto un record, mi sa. Ma aspetta, RPG Maker, dici quello vecchio, il primo. Il 95. Hai usato quello per il primo Lord of Inkaking? Esatto, per il primo e il secondo, è il 95. E il terzo è col 2000 invece, mi sembra. Col 2000, credo, sì. Col 2000. Ok, col 2000 in Italia qualcosina hanno fatto, ma col 95 credo che ci sei solo tu. Beh, adesso non so cosa ne pensiate di Lord of Inkaking. Comunque, alla fine, anche lì, come nei giochi precedenti, Lord of Inkaking ha come protagonisti dei miei amici del liceo, perché sì, alla fine è tutto lì che è nato, no? E loro, con loro sono anche ancora in contatto. Non li sento quanto vorrei, però ogni tanto ci sentiamo e ogni tanto ci ricordiamo delle cazzate, tipo di certe cazzate che erano comparse in quel videogioco, tipo la battuta di Sergei, che in realtà non è veramente gay, però immagino. No, vabbè, nell'uno è tornato etero dopo che ha sconfitto il cattivo. È vero. Però ogni tanto ci aveva dei momenti di... Sì, aveva delle ricadute. Sì, perché alla fine c'era la battuta che in cui diceva: ah, guarda cosa hai fatto, cazzone. Lui interveniva e diceva: cazzone, chi ha detto cazzone? Sì, no, non dice così, dice tipo 25 volte cazzone di fila in caps. Ah, meraviglioso. T'ho giocato oggi. Poi c'è il meraviglioso personaggio del Caga Palanche, che è anche una persona che è realmente esistente. Quello che finiva ogni sua frase con C uguale 8, con un cazzone disegnato. E questo perché, essendo stato il mio compagno di banco, era solito decorarmi diario, banchi, quaderni, libri di filosofia, con, io mi ricordo che mi disegnò un titanico fallo in una splash page di due facciate, un cazzone proprio... Ma proprio si vedeva che c'era messo impegno, no? Sembrava un amanuense, aveva preso questo un anno scolastico, sai? Sì, esatto, è stato un po' il tormento e l'estasi. E così, comunque sì, Lord of Inkaking è stato quello che, da quello che ho capito, ha avuto più successo. Anche perché effettivamente va detto che i personaggi sono, basandosi su persone reali, sono... E basandosi sull'esasperazione di certe loro peculiarità, erano quelli più con cui ci si poteva più identificare, ed è anche l'unico gioco in cui tra i protagonisti ci sono anch'io. Sì, e sarai contento di sapere che nel 2010 su Ma sì, a TNT Forum hanno proposto il torrent della trilogia e adesso è il torrent che gira per il web, quindi Lord of Inkaking dovrebbe essere ancora rintracciabile. Ah, beh. Beh, hanno fatto un pack di torrent. Ah, beh. Questo mi fa piacere. Lo vedi? Tutti e tre? No, no, l'ho visto adesso cercando, nel 2010, lo vedi che la gente si ricorda, te pensi, ma... perché te hai passato due stagioni avendo perso la memoria per quello. Sì, no, io ho fatto un refresh completo, quindi sto facendo la regressione tipo ipnosi con voi. Sì, è tipo un film cyberpunk, stai recuperando la memoria. Mm-mm. Senza bisogno di impianti chirurgici e cibernetici. Sì, e comunque, ragazzi, adesso vi dirò una cosa che non ha detto nessuno: Lord of Inkaking 4 esisteva. Però non esiste più perché mi si tostò l'hard disk, e quello fu anche una delle ragioni per cui gliela diedi su, come vi si dice dalle mie parti. No, è brutto quando... È molto brutto, soprattutto che non c'erano sistemi di backup online, cioè c'erano, però comunque, insomma, diciamo che ero stato per 6 mesi lontano da casa, avevo lasciato a metà Lord of Inkaking 4 da molto tempo, devo dire, che quindi insomma ero un po' a corto di ispirazioni, però era bello, cioè non era... Prima di tutto va detto che non era un gioco di ruolo, era un adventure. Era un adventure come Quest for the Toilet, Fire Dump, di cui non abbiamo ancora parlato, che aveva un adventure in stile Sierra, quindi con interfaccia icone cliccabili, con tutti e 5 i personaggi selezionabili separatamente. Cioè praticamente era un Maniac Mansion medievale, ma... Era andato anche abbastanza avanti, c'erano alcune cose veramente carine, altri punti in cui veramente non avevo la più pallida idea di come andare avanti. E di lasciati a metà di giochi c'era questo, Lord of Inkaking 4, che poi in realtà non era il 4, essendo uno spin-off adventure, si chiamava Lord of Inkaking Burning Down the Castle, che è ispirato alla canzone dei Talking Heads, e un altro che si chiamava Lulz, che praticamente era un clone di Loom, ma ambientato all'interno di internet, e al posto delle note musicali avevi LOL, ROTFL, OMG, queste cose qui. L'idea è fantastica. Quindi se la volete riciclare ve la regalo, ecco. No, non oserei mai. Ho visto che in Lord of Inkaking ti sei ispirato a Ultima, perché ringrazi Sir Arthur, come si chiama? Quello di Ultima come si chiama? Sir Richard Garriott. Sì. Beh, Ultima è stato, ecco, Ultima è stato veramente uno dei giochi a cui ho giocato di più, soprattutto il 6, perché non essendo io molto uno di quei ragazzi che aveva gli amici degli amici che gli davano i giochi piratati, molto spesso dovevo arrangiarmi in qualche modo, e una volta trovai Ultima 6 in edicola e veramente ci passai sopra dei mesi, ma solo su quello. Quindi devo dire che se so l'inglese decentemente adesso è grazie a Ultima 6. I videogiochi fanno miracoli con l'inglese, quello sì. Veramente. E se, ancora di più se so... Se so l'inglese shakespeariano, quello mi ha aiutato molto a scuola. Ultima è stato fantastico, anche perché è veramente scritto bene. Io ho sempre apprezzato nei giochi la trama, soprattutto il modo in cui erano scritti. E diciamo che quando ci si è spostati, soprattutto verso l'azione, è un po' over the top, come si dice, no? Un po' in cui si cerca veramente troppo di esagerare, insomma, non mi piacevano più. Sì. E quindi, sì, chiaramente Ultima è stata una grandissima ispirazione per Lord of Inkaking. Poi è chiaro che io ero partito con l'idea che se avessi voluto fare qualcosa di serio come Ultima 6 o anche Ultima 7, che anche quello ha una trama fantastica, dei momenti drammatici incredibile, e non ci sarei mai riuscito e sarei scaduto nel ridicolo, quindi meglio farlo direttamente ridicolo, almeno si fa, cioè almeno si vedo che vedevo che la gente rideva con gli altri giochi. Quando ho voluto fare un gioco di ruolo, era un sogno fare qualcosa tipo Ultima, ho detto però non cerchiamo di farlo, perché sennò veramente sembra qualcosa di esagerato, sembra veramente il bimbo minchia che vuol fare il fenomeno. già allora esistevano i bimbi minchia. Ah, ma quelli sono sempre esistiti. Sempre esistiti, si sì. Chiamavano in un altro modo, però esistevano. Vabbè, le terminologie si evolvono. Sì. Kug, come si chiamavano i bimbi minchia allora? Oddio. Beh, c'erano i Lamer. I? Lamer, scritto. Ah, sì, ogni tanto si può dire. Quelli sì. Ci sono ancora. Qualche vecchio squadrone usa ancora il no, i Lamer sono una categoria a parte, sono quelli che che vivono per rovinare l'esperienza di gioco di un altro, la vita nel gaming online. adesso si è ristretto a quell'ambito lì. Però al tempo era molto più in modo diverso. Sì. Vi invito a scrivere Lamer su Google e a vedere la rappresentazione grafica di un Lamer. No, adesso lo cerco anch'io. E soprattutto la magic del Newbo. Quello di Mad Mega. Vabbè, quella di Mad Magazine, sì. Sì, lui è il Newbo. Sì, beh, c'era anche, è vero, c'è anche il Newbie, non scritto Newbo così, però c'era il Newbie, ma c'era... no, in genere si diceva Lamer, era un po' un termine generico, un po' che secondo me quanto di più ci fosse di simile al bimbo minchia moderno, che poi anche sì. Questo non è che sia poi modernissimo, eh. Cosa, bimbo minchia? Bimbo minchia non mi sembra modernissimo. No, quanto... tira già avanti da un bel po', eh. Mm-mm. Adesso non ci sono nuovi. In generale, le nuove generazioni c'è il, come si chiama la nuova tipologia idiota di moda? Non mi ricordo. Quelli che ascoltano i gruppi underground. Pose. No, non i poser. Vabbè. Hipster. Hipster, ecco. Ah, ragazzi, io ce ne ho diversi in ufficio e quelli. Quelli sono terribili. L'altro giorno guardavo. Vado un attimo off topic, un video che c'erano le 10 peggiori canzoni dell'anno scorso, tipo, e c'era questo tizio di colore che cantava una canzone in genere hipster. Allora il tipo che diceva, commentava le canzoni, fa, le persone afroamericane, no, i bianchi hanno rubato tutta la musica buona alle persone afroamericane, l'hip hop, lo ska, il reggae. Perché quando un afroamericano ruba il genere musicale ai bianchi, ruba il più stupido che hanno inventato, l'hipster. Ovviamente. Vabbè. Ma c'è in ufficio da me che ce ne sono diversi, sono poi quelli che girano con la Canon, la tracolla e l'Apple sotto l'ascella, no? Sì. Quelli veramente, ragazzi, mi abbiamo voglia di fare di affettine. Stiamo divagando sull'odio naturale che hanno le persone intelligenti, sì. Su quelle non intelligenti. Vabbè, però è vero, ragazzi. Forse se avessi fatto Lord of Incaking al giorno d'oggi tra i nemici, quelli che compaiono a random, ci avrei messo l'hipster sicuramente. Metto su all'hipster. Molto più. Ok. Quindi ci hai già detto che tu comunque un po' sapevi programmare già di tuo, e poi sì. Comunque a scuola lo imparavi bene o male quelle cose. E, tra i tuoi giochi, qual è quello che hai preferito fare? Quello che ho preferito fare è sicuramente Sim Brother. Sim Brother 3069, perché c'è anche un prequel, Sim Brother 2069, che Beverly Hills 290-10. Sì. Perché sì, c'è una storia dietro che non è molto bella su Sim Brother. Praticamente mi ricordo che c'era un... sempre dicevo da me, c'era uno in un'altra classe, un po' strano effettivamente, che lui raccontava di scrivere racconti pulp, e ce li faceva leggere, c'avevano dei titoli veramente agghiaccianti, ma proprio veramente che comprendevano temi tipo incesto, necrofilia, queste cose qui, no? Alle superiori, e, questo. Sì, esatto. E lui diceva anche lui di programmare giochi, non ne ha mai mostrato uno, e ha fatto il simulatore, tipo un SimCity, un simulatore di lager, di campo di concentramento, no? Allora, questa cosa qui tra l'altro era stata anche pubblicata negli articoli dei giornali contro i videogiochi violenti che distruggono la mente dei nostri figli, quelli, sì, quei famosi articoli che dimostravano un'ignoranza in materia abissale. Anche lì diceva che c'era qualcosa, c'era un videogioco in cui si gestiva il lager, no? Ma era fatto da un adolescente quel gioco, come faceva ad essere già così? Cioè, non penso in realtà che si riferisse a quello fatto dal tizio. Diciamo che quando per una vita giochi a SimCity, a SimTown, SimZoo, SimPark, Sim sto cazzo, è naturale che uno un po' stronzo viene l'idea di fare il gioco. Sì, sì. Allora, cioè, al tempo, siccome era un idiota al tempo, cioè, l'idea, per quanto fosse orribile in sé, cioè, provai a buttare giù qualcosa di simile in cui i condannati erano, i prigionieri erano persone tipo quelli che non mettono la freccia quando svoltano, quelli che abbandonano i cani in autostrada, quelli che, insomma, cioè, capito, no? Cioè, una tutte cosa... cose legate a guidare, però. Sì, beh, probabilmente se l'avessi fatto adesso ci sarebbero stati gli hipster. Giustamente. Tra i condannati. Però sì, per quanto cercassi proprio di... Ma proprio... No, era stupido, era idiota, era brutto, era sbagliato. Ecco. Sì, era ignorante come cosa. Era ignorante. E allora dico, ma perché sto perdendo tempo? Facciamo... Cioè, facciamo qualcosa legato all'amore. E allora feci il simulatore di bordello. Sì, detto così non è molto bello, però feci questo gestionale il protagonista gestiva un bordello, chiaramente tutto all'acqua di rose, tutto senza dietro le parti brutte, una cosa molto idealizzata, se vogliamo, no? Era molto sitcom, dai, cioè, c'è solo la parte divertente. Esatto, solo la parte divertente, bravissimo, tipo una sitcom. E insomma, quello era già molto più carino, chiaramente tutte le parti erano molto, cioè si alludeva soltanto alla parte che avrebbe potuto, le parti che avrebbero potuto essere un po' come dire sull'offensivo, no? Poi chiaramente se una persona vuole essere offesa da una cosa del genere, per quanto possa essere scherzosa, in stile amichevole e tutto quanto, si offende. Vabbè, comunque, e io lo capisco, per carità, ci sta, però al tempo, quando veramente sei in questa situazione di, tra virgolette, avanguardia, no? E stai un po' pensando alle possibilità di giochi originali si possano fare, un simulatore di bordello tipo che sia ambientato nel futuro, ma che si rifà all'immagine romantica che ti fanno vedere documentari, libri e comunque tutte le persone che parlano di come erano queste case di piacere prima della legge Merlin, cioè, per carità, ci può stare, insomma. Poi non pretendo che le persone capiscano, però almeno che, cioè, che comprendano il fatto che quando una cosa è fatta veramente con innocenza, ci può stare una cosa del genere. Allora feci questo simulatore carino, sì, era fatto con Delphi, quindi era per Windows, basato su finestre, senza immagini, con moltissime citazioni, soprattutto a My Dear Goal, che andava per la maggiore. E che dire, era carino, divertente, però era un gioco a schermate, a menu. Successivamente, dopo aver fatto anche The Flying Salesman, che è stato il gioco con cui ho scoperto l'utilizzo di Adventure Game Studio, che Poi ho utilizzato anche per fare Firedump e SimBrowser e The Battle of the Elite Office Olympics. Sì. Cioè, con l'esperienza che ho accumulato, ho deciso di rifarlo questo SimBrowser, ma la parte di gestione della casa di piacere era messa da parte perché in realtà era un adventure con elementi di strategia in cui il protagonista aveva tre fratelli, interagiva con i fratelli, interagiva con i vicini di casa, cercava di emanciparsi da un giudice che fungeva anche da sindaco, che era eccessivamente moralista Poi e chi è che lavorava in città nel cantiere anche? ci lavorava Vitruvio, esatto. C'era la tua musa, Vitruvio. Esatto, forse anche per quello che era il mio preferito. Insomma, c'erano un sacco di cose che alla fine la parte di gestione del bordello passa veramente in secondo piano. Sì. Era un gioco in cui alla fine del gioco, se lo finite il gioco, cioè se vincete, c'è Vitruvio che fa proprio il discorso. Questo non è un gioco sul bordello, è un gioco sulla famiglia. I protagonisti, i Fava, sono quattro fratelli che si vogliono bene, un bene da impazzire, si collaborano, stanno vicini, nell'avversità si danno una Poi c'è mano. anche la cugina che lavora con loro. C'è anche la cugina, sì. Insomma, alla fine era tutto un volemose bene che secondo me, sì, per carità, c'aveva delle battute triviali da filmaccio, tipo quelli con Alvaro Vitali, però secondo me non era volgare. E vi dirò che nessuno, anche molte ragazze ci hanno giocato, nessuno l'ha mai trovato volgare. Questo mi ha fatto veramente molto piacere, perché hanno capito il messaggio che c'era, che non era veramente un voler privare, cioè un voler ridurre le donne a oggetto come si potrebbe pensare, perché tutte le lavoratrici, tra virgolette, del bordello erano. Cioè, erano persone, erano NPC con cui si poteva chiacchierare, con cui poi, a cui fare anche regali, a cui per gestire, insomma, aveva tutta una dinamica che secondo me era molto bella. Mi è piaciuto molto realizzarlo anche per il fatto che c'era da tenere in considerazione tutte le dinamiche di personalità e non di semplice management, che me l'hanno reso molto piacevole. E poi le musiche, perché lì è stato il primo gioco in cui le musiche le ho fatte tutte io. Anche The Flying Salesman le avevo fatte io, un'altra persona che aveva fatto alcune musiche, la musica dei villaggi, se non sbaglio, la musica della chiesa l'aveva fatta un'altra persona. E invece in SimBrowser l'ho fatto tutto quanto io. E lì mi è piaciuto molto anche perché io ho preso in mano Modplug, che è un programmino per fare i file modulo tipo quelli dell'Amiga o dell'Atari Sì. ST, e ne ho fatto delle gran musiche in stile anni 80, perché nonostante sia ambientato in un lontano futuro, gli anni 80 sono tornati completamente di moda e andando in giro si trovano i paninari, andando in discoteca, Pompeo il protagonista può ballare il Joke à Jouer. Oppure sono i vestiti da disco comunque, anche, cioè Vestiti. disco. Sì, da disco, che era disco degli anni 70, infatti Pompeo insulta suo Sì, fratello Pompei. che veste ancora come L'ho un detto, io ci ho insegno. giocato oggi, quando vai in macchina col fratello, quello che si chiama Didimo. Didimo, Sì. quando ti metti a Didimo aveva cantare una parte. sincronizzato, io Sì. sono morto dal ridere. Perché, cioè, sì, perché alla fine. Cioè, chi ci gioca parte pensando anche con la canzone iniziale fatta con sintetizzatore vocale, sembra qualcosa, oh mamma mia, una cosa incredibilmente sessista, e poi ci vedi delle cose che sono veramente quasi infantili, perché anche sono innocenti. Cioè, Sì. vedi i Pompeo e Didimo che vanno in giro con la macchina cantando, vedi per esempio quando. Questo è più avanti nel gioco, quando Pompeo vuole entrare di soppiatto nel bordello aggressario quello travestito da massaggiatrici, che quella è una critica alla Juventus, se vogliamo, no? Mm. E voi siete juventini, ragazzi? Io no. Nessuno segue il calcio qui. Vabbè, sì, comunque... io sono juventino per modo di dire. Vabbè, comunque al tempo, vabbè, se, effettivamente voi siete... ci si ride su. Voi sì, ma voi venite da una zona in cui la juventinità è piuttosto diffusa. Sì, molto. Al tempo della realizzazione c'erano i primi grossi scandali tra il pre-Calciopoli e comunque anche l'episodio del Viva Line, non so se ve lo ricordate, era un centro massaggi di Torino in cui andavano i calciatori della Juve e in realtà le massaggiatrici erano delle prostitute che durante il massaggio facevano tutti i servizi che voleva il calciatore. E praticamente quando Pompeo vuole entrare di soppiatto nel bordello nemico, parte la musica da film d'azione e lui dice: io sono l'ultimo pappone ninja, no? E Afro questo, ninja, tra l'altro. Esatto, quindi e questo è l'ultimo, è una l'ennesima parodia degli anni Ottanta in cui una cosa per essere cool era ninja. Esatto. Quindi sì, quello è stato il mio preferito da creare. Quello che invece amo di più è rigiocare, che è l'unico che non mi dà veramente, che non mi fa rattrappire sulla sedia dall'imbarazzo per quello che avevo scritto, è Firedump. Qual è, scusa? Firedump. Ah, sì. Firedump, anche questa è una premessa un po' particolare, se vogliamo, del fatto che c'è un uomo che ha le emorroidi e deve trovare un rimedio. Cioè, queste sono sempre queste tematiche qua, no? Sì. E quello ha una brutta grafica, ha delle grafiche... Sì, è bruttino. Diciamo. In quegli anni con AGS i giochi erano tutti così, bene o male. D'accordo, però comunque è una grafica abbastanza tirata via se vedi le animazioni. E comunque rispetto a un Simbrother o un The Flying Salesman che è precedente, è sicuramente peggiore, no? Cioè, sto guardando gli screenshot del gioco, cioè, vabbè, c'è un mega, dico un mega spoiler, c'è Cthulhu che gioca a golf, è fantastico. Sì, lì è veramente proprio per questo, perché siccome non ero vincolato a grafica, diciamo che saltavano un po' di regole, allora mi sono veramente sbizzarrito. Tra l'altro Cthulhu gioca golf con Black Macigno, che è un personaggio dei fumetti della Bonelli degli anni 60, no? Sì, sì, è vero, lui è Black. E quindi, insomma, per me è quello veramente, dal punto di vista della scrittura, che è venuto meglio. La grafica è sempre tua? La grafica è mia, fatta con PaintShop Pro pixel by pixel. Beh, guarda che non è male, le luci, le sfumature, le ombre sono buone. Sì, però se la confronti con un Sim Brother o un The Flying Salesman, poi magari una persona dice che questa ha più anima perché l'altra è fatta, è un rendering, però sì. Insomma, tecnicamente è abbastanza tirato via. Però questo è, se mi chiedete un mio preferito, è quello. Io è troppo ti... Ah, che è del 2004, qui leggo. Sì, l'avevo iniziato molto precedentemente. È stato il primo gioco che ho iniziato con AGS. Era completamente diverso come trama. Praticamente Franco, il protagonista, girava per questa città abbastanza senza meta. L'idea era che ci fossero degli alieni che volevano rapire gli esseri umani di quella città per farne creme antirughe. Ah, il mitile ignoto. Sì, esatto. E il mitile ignoto è meraviglioso. E infatti la statua del mitile ignoto, che è una cozza, appunto, sì. Adesso vi faccio un altro mega spoiler, contiene una... contiene, quando Franco ci entra, dice: ah, questo mito dei gnoti in realtà contiene un'astronave, deve essere l'astronave con cui erano venuti qua quegli alieni che qualche anno fa volevano rubarci fluidi corporei per farne creme di bellezza. E quindi è un riferimento alla vecchia versione di Firedamp. Certe battute, quelle che almeno vedo qui dagli screenshot di Buzz Comics, sono fenomenali. Sai, il mitile ignoto è meraviglioso. Ah, ma c'è anche il poster con la toppa, eh? Non lo vedo il poster con la toppa. Ah, comunque c'è un poster con un criceto, con una criceta che era di mia sorella, che è una criceta bellissima. E allora Franco, guardando questo poster con la criceta, diceva: ecco un altro caso di incomprensione tra pubblicitari. E il narratore diceva: ah beh, la toppa c'è, no? Anche l'ospedale c'ha il suo perché. Sì, ma come vi ho detto, mi sono veramente molto molto divertito anche con quello lì, perché cioè, mi sono divertito meno che con Simbrother, perché ho curato giusto l'aspetto della scrittura. E diciamo che fare la grafica per Firedamp è stato un po' un peso, perché io non sono uno da pixel art. La musica non è un granché, perché sono dei file MIDI di pubblico dominio trovati su internet con delle canzoni, sì, famose. E quindi, sì, non è niente di che. Però, sì, cioè, dal punto di vista di come è scritto, è il migliore di tutti. Hai detto che, cioè, che quello che non ti vergogna a rigiocare, quindi ogni tanto ci rigiochi i tuoi giochi? Ogni tanto ci rigiocavo, almeno da 2 anni non ci rigiocavo. Ho rigiocato quando ho visto la vostra mail. Ho ridato un'occhiata a quello che mi ricorda di più, cioè Simbrother. Effettivamente lì mi sono un po' rattrappito, ricordando, cioè, perché la vostra mail chiaramente ha dato il via a tutta una serie di recuperi di memoria. Hai mai visto It? Sì. È presente quando ricevono la telefonata che si ricordano l'adolescenza perduta, che, ecco, così. Sì, no? Esatto, sì, esatto. Tenne, a parte il pagliaccio, più o meno. Il clown, lui non te lo ricordi, ok. No, quello non me lo ricordo, nemmeno barchette di carte, nemmeno ragni, nemmeno ragni giganti. Questo è meglio così, forse. Direi proprio di sì. E comunque, insomma, ho rigiocato a come si chiama, Simbrother, infatti, infatti ho trovato la versione enhanced, quella con un po' di bug risolti e con l'intro che faceva credere che fosse stato craccato. E ci ho giocato, insomma, sì, bello, divertente, come dicevo prima, comunque molto, molto infantile nel modo, e proprio perché è molto infantile, molto spensierato, molto innocente, vedi delle cose che, cioè, insomma, le ho scritte veramente io, questo, cioè, ti vergogni, capisci che è un tentativo troppo forte di far ridere, no? E sì. Bisogna stare sempre in equilibrio, secondo me, non bisogna cercare di far ridere ad ogni costo, se no si diventa veramente demenziali nel peggiore senso della parola. Si diventa troppo demenziali e si veramente si perde molto, cioè si perde la vis comica, no? E quindi in Simbrother succede, in Office Olympics succede, in Lord of Incaking succede un sacco, e in The Flying Salesman non tanto, ma perché non c'è molto testo in realtà, cioè non è abbastanza serio. In Firedamp non succede, e di questo sono veramente fiero, cioè su tutti quelli che ho fatto uno l'ho beccato, ecco. E hai ancora tempo? Avrei un altro paio di domande, ma se ma, non è più no, io guarda, posso andare avanti fino a notte fonda a sto punto. Il sigaro quanto dura? Che... In realtà sono al mozzicone, ma me ne posso accendere uno più corto. Ah, ma guarda, pensavo che i sigari durassero di più. Beh, ma questo è sottile, è un Davidoff, è un Davidoff infatti, a tela longa. Certo, un sigaro dura tantissimo quando guardi la gente che fuma. Cioè, questo è lungo ma è sottile, se... Non è ancora abbastanza freddo per quelli più grossi. Allora, volevo chiederti, quindi prima di, cioè prima e durante, mentre facevi i videogiochi, quali videogiochi giocavi, a parte Ultima che ce l'hai già rivelato? Beh, allora, a parte Ultima, Street Fighter 2. Sì. Poi c'è stato un periodo che, come tutti, mi sono ammazzato di PC Calcio e Championship Manager. Mm-hmm. Utopia, The Creation of a Nation. Ah, lo so, sentito nominare. Quello è fantastico. È un SimCity ambientato nello spazio in cui devi costruire una colonia. Ah, sì, sì, sì, sì. Era già vecchio al tempo perché era del 91. Poi, avendo scoperto internet, diciamo che mi sono messo molto in pari. Perché andavo sui siti dei cosiddetti abandonware. Che ancora non lo erano. Che ancora non lo erano. No, alcuni lo erano, dai. Oh, mi volete far arrestare? No, vabbè, però dai. No, vabbè, no. Tanto nessuno sa il tuo nome. Se tu parli di seconda metà anni 90, ancora questo non era abandonware. Beh, non, qua non si parlava. Cioè, io in realtà internet, il collegamento a internet mi arrivò nel 98, credo. 90, Dai. No, 99 o 2000. Ti possiamo abbonare questo, dai. Non ti denuncerò. Grazie, troppo gentili. Però al tempo non lo sapevo, diciamo. Beh, no, è del 91 il gioco, quindi dai, 8 anni vanno bene per un album. Però quello mi sa che me l'avevo comprato in edicola. Comunque, scaricarsi un adesso, gioco. Adesso l'hai comprato. Scaricarsi un gioco con le connessioni di 10 anni fa. Era come comprare l'originale. Esatto, no, pagavi triplo, lo pagavi. Vabbè. Però non avevi la rivista. Non avevo la rivista, esatto. E poi che altro giocavo? Quindi sì, un sacco di Abandonware. Mi ricordo che avevo giocato molto a, anche sempre per stare sui giochi di ruolo, a Lands of Lore. Avevo recuperato tutti gli arretrati, perché di sera avevo giocato veramente pochissimo. Allora, per esempio, tutti i Larry me li sono giocati, a parte il 3, che è anche quello comprato in edicola, li recuperai, quindi anche lì mi feci una cultura con i Larry, che tra l'altro ho scritto all'autore, con un paio di volte, ragazzo, persona gentilissima e disponibilissima, veramente, mm-hmm. veramente, veramente una bella persona. E ho adorato Space Quest 5, che sì. Non sarei mai cagato. Anche Rise of the Dragon era carino, sempre della Dynamics. Ah, io presente qual è? Ne parlavamo l'altro giorno sul podcast. E poi fammi pensare. Ah, beh, c'era, recuperai e finalmente finì un gioco comprato originale e non in edicola, cioè Cruise for a Corpse. Quello sempre ispirato ad Agatha Christie, quello gioco adventure in stile giallo a cui si è chiaramente ispirato. Non ho sentito il nome, scusa. È Cruise for a Corpse. Ah, sì. Lo conosco. E l'hai finito con le tue forze senza soluzione? I maroni. No, ragazzi, sti francesi sono bastardi. Sì. No, comunque io ho veramente un debole per i videogiochi. Sì, infatti, siccome sono spesso a Parigi, l'anno scorso sono stato alle Grand Palais, c'era una mostra sulla storia del videogioco, e mi ha piuttosto deluso il fatto che ci fosse veramente poco spazio ai videogiochi francesi. C'era molto spazio ai giochi giapponesi, molto spazio agli americani, ma ai francesi praticamente nulla. Ed è un peccato, perché ci sono giochi veramente fuori di testa, cioè, come piacciono a me, completamente diversi da tutto il resto, come sapevano essere solo i francesi, che erano veramente belli. Io mi ricordo, per esempio, qua andiamo molto indietro, Bubble Ghost, quello mi piaceva moltissimo, che è un puzzle game in cui un fantasmino deve spingere soffiando una bolla di sapone all'interno di un castello pieno di oggetti appuntiti che la fanno scoppiare, ovviamente. Sì, poi c'era Captain Blood, bellissimo. era un videogioco adventure spaziale in cui, per cui era stato inventato un linguaggio di ideogrammi, che praticamente il gioco stava tutto nel comunicare con gli alieni tramite questo linguaggio fatto di ideogrammi e suoni strani. Ed era spaventoso perché il puntatore del mouse o del joystick, se non avevi il mouse, era un braccio meccanico, perché il protagonista, appunto Captain Blood, il Capitano Sangue, che era poi in realtà ispirato ai romanzi di Raphael Sabatini, era quest'uomo che stava venendo lentamente trasformato in un robot, perché a seguito di un teletrasporto andato male e i suoi fluidi corporei stavano venendo risucchiati da suoi cloni che erano stati creati da questo incidente del teletrasporto. Ed era veramente spaventoso, per quanto fosse sciocco. Il numero dei geroglifici è spaventoso, sono tantissimi. Sì, sì, esatto. Infatti questo è veramente fuori di testa, e lo scopo del gioco era comunicare con gli alieni per trovare il pianeta successivo, perché c'era un totale di circa 32.000 pianeti, la maggior parte dei quali vuoto. No, è interessante, cioè un gioco come non se ne vedono. Poi mi ricordo anche Eternam. Sì, quello lo conosco. Più che altro vittima di una traduzione italiana fatta veramente coi piedi, che lo rende veramente molto psichedelico, se vogliamo. E poi, sì, vabbè, se vogliamo andare su quelli più famosi, è Another World, il platform adventure, quello sì. Senza, cioè, quello bellissimo fatto col motion capture, e comunque senza una riga di testo, molto poetico, no? Se vogliamo. Che ha fatto 25 anni quest'anno. Che ha fatto 25 anni, esatto. Tra l'altro è uscita anche una versione speciale poco rimasterizzata graficamente, esatto. Sì. Molto bello. E come dicevo, i francesi, prima che diventassero culturalmente schiavi degli americani, e vi dico, io per amore sono a Parigi molto spesso, e quindi vi dico, la Francia che conoscevo, che avevo imparato a conoscere ai tempi delle scuole medie, è completamente cambiata. Non è più la Francia con le macchine dai fanali gialli che traducono anche il nome del computer, del mouse e del programma, no? Sì. E sono diventati anche loro, si sono anche loro americanizzati, e questo mi ha un po' intristito, se vogliamo. D'altra parte, comunque, gli Assassin's Creed non so se sia francese o canadese. Canadese. Ah, canadese, vabbè, allora comunque a partire da Alone in the Dark, che al tempo fu molto innovativo, però è diventato quello che è diventata la saga. È diventato troppo mainstream. Però i videogiochi francesi vecchi li ho giocati molto al tempo e mi hanno molto ispirato. Quindi giocavi solo su PC, console, niente? No, console a Natale mi regalarono la PlayStation 1. Sì, ci giocai qualcosa. Poi ebbe un revival quando ci misi una cosa che mi permise di giocare. La magia? Sì, esatto. Noi la chiamiamo magia. Bene, bene, bravi, vedo che mi avete anticipato. Ah, e invece ho un Amiga CD32 che non uso. L'ho ereditato. Ah, sì. Però è sempre bello averlo. Sì, è un soprammobile. Fa arredamento. No, fa figo, fa. Vabbè. Sì, ma infatti mi dicono che è abbastanza raro. Confermate? Sì. Sì. I giochi sono ancora più rari. Anche i giochi sono rari, quello è il problema. Sì, infatti. E non so se ci sia una magia per quello. Non lo so, sai, può darsi. Devo trovare il libro giusto. Va bene, perché ho il grimorio adatto. Con la perdita della biblioteca di Alessandria. Le magie ci sono. Poi mi avete fatto venire in mente Civilization, ragazzi, quanto ci ho giocato. Sid Meier. Sì, e poi sì, comunque tutta roba, o adventure o strategica a turni, perché in tempo reale mi fa cagare. Mm-hmm. E, scusate se ho detto cagare. Ma dopo gli insulti alla maestra, credo che cagare sia il minimo. No, poveretta, perché alla fine è veramente una bravissima persona, eh. Cioè, però si capiva che non aveva entusiasmo. Però, cioè, è inutile. Io quello che voglio dire con questa intervista è che sono cresciuto. Certo. Io mi guardo indietro e vedo, scusate, non voglio scendere nel patetico, però vedevo veramente un grandissimo, avevo veramente un grandissimo entusiasmo per fare le cose, per fare queste cose. E quello che mi sento di dire a tutte le persone che intraprendono questa carriera è che fatelo per voi stessi, perché nessuno veramente vi darà le soddisfazioni che vi siete sempre prefigurati mentre stavate scrivendo codice del gioco. Perché comunque, per una persona che sinceramente apprezza, e queste sono le vittorie più grandi che ci sono in questo campo, chiaramente ci sono tante persone che criticano perché vedono persone che hanno saputo tenere duro, hanno saputo perseverare ed arrivare fino alla fine e pubblicare il loro gioco, che al confronto a tutti i casini che ci sono nel mondo, tutto quello che si può fare, come si può impegnare le proprie energie, è una cazzata, è vero, è una perdita di tempo, ci sarà sempre quello che vi dirà pensa alla figa, scusate se ho detto figa, però non ti devi scusare di niente, vai avanti. Va bene, però ti gira anche di peso. Però ragazzi, veramente fatelo per voi stessi, perché se vi basate il vostro entusiasmo sul feedback che vi arriverà, il vostro entusiasmo si distruggerà. Tenete duro cercando. Questo mi ricorda qualcuno. Che ho detto? No, niente. No, vai pure avanti. No, dicevo, questo mi ricorda qualcuno. Qualcuno in questa conversazione, comunque, andiamo avanti. Gira. Gira, sì, gira. Il feedback. No, puoi continuare, Kug. No, vabbè, però, cioè, questo ci tenevo a dirlo perché io ho conosciuto un sacco di persone che mi hanno chiesto ma come fai, insomma, e alla fine me lo sono chiesto anch'io come ho fatto, no? Io non è che ritenga una grandissima impresa chissà che cosa, perché tra l'altro, se vogliamo restare sulle cazzate, io non ho fatto solo i giochi della pasta, io sono stato una fabbrica di cazzate. Se ci avete presente, vabbè, adesso scusate, me la tiro un sacco. No, è il tuo spazio, di quello che vuoi. No, però dopo non vorrei che sembrasse uno spam personale. No, ma non ti preoccupare. No, perché sapete, quando cercate di far notare i vostri giochi su un forum, vi viene dato subito dello spammone. Vieni bannato a vita. Ecco. No, continua, perché comunque quello di cui stai per parlare non lo so. Me l'hai anticipato, ma non so assolutamente di cosa stai per parlare. Praticamente avevo fatto questo enigma che... questo è successivo ai giochi della Pasqua, mi pare. Si chiama ICAP, che sta per il cervello a prostituirsi, no? Perché praticamente doveva mandare il tuo cervello a puttane, no? ICAP.altervista.org esiste ancora, è una delle poche cose che esiste ancora. È vero. È un enigma, praticamente sei di fronte a una pagina bianca e devi arrivare alla seconda pagina. E dalla seconda pagina devi arrivare poi alla terza, poi alla quarta. Ci sono circa 200 di queste pagine. E per arrivare alla pagina successiva bisogna risolvere un enigma che può essere legato alla una domanda di cultura nascosta, qualche rielaborazione del codice HTML o delle immagini che sono contenute, o steganografia o cose del genere. E quello, paradossalmente, essendo nato veramente in un momento di fancazzismo, senza pianificazione, senza niente, ha avuto per qualche mese un successo incredibile, tant'è che ho dovuto sborsare dei soldi per aumentare la larghezza di banda del sito su Altervista. Addirittura. Però. Sì. Cavolo. Sono soddisfazioni. Sì, sono soddisfazioni. Tuttora c'è gente che mi ha scritto: ma tu sei Coug, quello di Capsi? Infatti, vabbè, quindi la maggior parte delle persone mi ricorda come quello di Icap, le persone che mi ricordano ovviamente. Però è tutto iniziato con la pasta, cioè, penso che le due cose siano strettamente legate. Poi non ho linkato mai una cosa all'altra, perché alla fine, per come lavoravo io, cioè come ho sempre lavorato io su queste cose, io ero molto uno spara e dimentica, si dice, no? Nel senso che facevo una cosa, non è che mi impegnassi tanto per reclamizzarla in qualsiasi modo, non è, ci sono un sacco di cose che fanno, un sacco di persone che fanno una cosa, magari fatta anche, cioè anche niente di che, no? Sì. Però non fanno altro che dirla a tutti e vanno avanti e dicono solo questo, perché quelle sono le persone che fanno le cose per avere successo, avere attenzione, avere soldi e insomma cioè diventare delle piccole celebrità di internet. Una cosa di cui posso dire di andare fiero è che io non facevo questo, e infatti infatti io mi sono meravigliato quando mi avete ricontattato, perché pensavo che non fosse rimasto più niente di traccia. E invece... Però è una cosa che mi dà molte soddisfazioni, Se è la seconda cosa che mi ha dato molte soddisfazioni, perché che mi ha dato più soddisfazioni da parte della pasta, perché la prima cosa che mi ha dato più soddisfazioni è stata quando un ragazzo mi ha scritto che grazie, giocando a Symbrother 3069 ha superato un momento molto brutto di depressione. Quindi cioè, ricevere queste cose qua, dice, uno si sente veramente felice, cioè fiero di quello che ha fatto. Cioè è un gioco in cui quattro deficienti con dei nomi idioti in cui vanno i calciatori e di nascosto gli fanno le foto per mandarle a Biscardi. Cioè questo è il gioco, no? Cioè, sì. Però con questa cosa qua ho fatto sì che un ragazzo abbia superato un momento difficile. E questo è veramente impagabile, secondo me. Sì, bello, bello. Secondo sigaro. Vai, questo mi sa che non lo finirai. Ah, ma questo è corto. Noi potremmo andare avanti tutta la notte, ma i nostri ascoltatori non credo abbiano... Ah, vabbè. Volevo chiederti, invece adesso, sei oberato di lavoro o riesci ancora a giocare ai videogiochi? È più lavoro che altro, però ancora in qualche modo contribuisco al mondo dei videogiochi. E la mia ultima fatica è stata la traduzione in inglese di Calza Football Manager, che è un gioco che sta avendo molto successo, un gioco manageriale di calcio che sta avendo molto successo su per Android e per iOS. Il gioco non l'ho fatto io, l'ha fatto un mio carissimo amico che ha fatto anche la terribile minaccia degli invasori dell'Audio Galassia. Non so se sì. Ecco, quale di loro? È il timido. Il timido. Sì. Ho provato a contattare anche lui, ma non mi ha risposto ancora. Ah, beh, allora bisogna dire, ho visto che sono, cioè, lo sento molto spesso. E, metti una buona parola, va bene. Metterò una buona parola per lui. Insomma, io ho tradotto in inglese anche la terribile minaccia degli invasori dell'Audio Galassia. Ah. E ci tengo a sottolineare che non ho tradotto il titolo e io non avrei tradotto terribile in terrific, che è un'altra cosa. Beh, tu l'inglese l'hai imparato con Ultima, quindi... Sì, beh, ma se... Sei un po' più... Un altro lavoro che ho fatto insieme a Il Timido, che lui ha scritto la guida a tutti gli Ultima, aveva scritto in italiano la guida a tutti gli Ultima, ed è stato contattato da un fotografo che voleva realizzare un calendario di donne un poco vestite, no. Okay, niente vestite, niente di Not Safe for Work. Però sì, era però erano donne vestite da ultima, no? Mm-hmm. E praticamente contattò il timido per farsi dare degli spunti su Ultima per fare le foto, no? Ah. E io feci da traduttore del design document del timido, feci da traduttore in inglese per passare questo documento a Richard Garriott in persona, quindi insomma, ho fatto da tramite tra il timido e Richard Garriott, e anche questa è stata una discreta esperienza. Tra l'altro c'è anche, tra le donne fotografate, c'è anche la sorella di Belen. Ah, ma guarda. Che non ho conosciuto. Hai tradotto dei documenti da mandare a lei. Sì, vabbè. Pazienza. Comunque, così. Quindi, sì, io adesso sto... Il lavoro che sto facendo nel campo videoludico è ridotto a questo. Per giocare, sì, io effettivamente giochicchio nei momenti di stanca sul telefono, per esempio a casa Football Manager, che è veramente bello, e giochicchio ad altri giochi che scarico così. Ho provato a installare DOSBox sul telefono, ScumVM, ma è un po' difficile. È un po' difficile giocarci. Ah, sì. Comandi touch. Sì, però devo dire che a parte questo sul PC praticamente più niente. Sì, mi limito al telefono, e ecco una cosa che pensavo anche con il timido, che non sarebbe male, stiamo parlando, sto cercando di convincerlo a fare assieme un reboot di Lord of Incaking per il telefono. Prima o poi ce la faremo, non so se oddio, dico prima o poi, ma ci sto provando, è una cosa che mi ronza un po' nel retrocranio. E lo programmeresti da zero senza usare RPG Maker in questo caso, ovviamente, ovviamente sì. Perché per il telefono, sì. Ovviamente, sì, poi chiaramente magari sarebbe qualcosa di diverso, già. Poi lo faremo anche in due, e non lo so, poi cioè, ci stiamo pensando, cioè, non è che c'è niente di pianificato, però siamo ancora in quella fase che ho tanto vituperato nei confronti dei forum di game making, che siamo nella fase del sarebbe figo se. Con questo hai risposto alla domanda che l'ho fatto dopo, che erano i progetti per il futuro, quindi me l'hai già... No, il progetto per il futuro dal punto di vista ludico è quello. Dal punto di vista... E rimettere online tutti i giochi della pastorale. Ah, no, pensavo Vitruvio 2. Ma l'uno ancora non è uscito. Beh, è inedito l'uno. Ragazzi, comunque è solo... Cioè, fai come l'Azure Suite Larry, che manca il 4. Sì, effettivamente sì, però... quello è uscito nel 96. Dai, forse per il 20° anniversario ci possiamo pensare. Perché ce l'hai ancora? Non è morto con l'hard disk Explorer? No, quello ce l'ho. Ok. No, mi era proprio morto l'hard disk di lavoro, che conteneva l'AGS, cioè i file temporanei di AGS di Lord of Incaking 4, più rules, più altra roba che stavo facendo, ma erano cose molto così en passant, come dei tentativi di aborto di gioco. Io ecco, mi ricordo che avevo anche iniziato un gioco senza titolo, che era un ribaltamento, mi è venuto in mente adesso, era un ribaltamento del concetto di Populus o dei God Game. Sì. Qui non eri un dio che doveva manovrare i suoi seguaci, ma eri un seguace che doveva seguire tutti i capricci di 12 dei rompicoglioni. Cavolo. Alla mitologia greca. Fai un baffo a Moulinot. Sì. E a Black and White. Esatto, qualcosa del genere. E infatti avevo anche giocato a Black and White, però a causa del 3D non ero riuscito ad andare molto avanti. Anche perché lì è agghiacciante come il... Sì, la gestione della telecamera, mi ricordo. Io mi ricordo che stetti male il mio primo giorno di università, Proprio perché il giorno prima avevo giocato a Black and White. Sì, sì, era da incubo. Quindi non ero solo io. No, il tutorial per la telecamera durava 25 minuti, questo qualcosa vorrà dire, no? Sì, effettivamente. Non e non potevi boia. Saltarlo. Non hai tutti i torti, eh. Maledetti. Infatti la Lion è da fallito. Aspetta che gioco un attimo, così domani non vado a scuola. Che si sente male. Sì, però stanotte sognerai l'angelo e il diavolo Basie che ti dicono cosa fare. Sì, ma... Non, sì, non è neanche. E di quel gioco lì non è sopravvissuto niente, se non una schermata che è stata messa nell'introduzione di Office Olympics. Quel tizio col maglione. No, quale? E erano la schermata dei 12 dei. Non l'ho presa, l'ho vista oggi l'introduzione, però non l'ho presente la schermata dei 12 dei. C'erano questi tizi un po' con la faccia un po' incazzata in mezzo alle nuvole, di cui due avevano la pelle blu, uno aveva l'elmetto, uno era proprio praticamente Zeus. Beh, è stato riciclato giusto quello. Ok. Però direi diciamo, che... Office Olympics non è neanche. No, l'ho giocato oggi, non riesco a vincere la prova, la gara di intorto, non ce la faccio, troppo difficile. Devi essere un buon dattilografo. Sì, devi sapere dove sono tutti i tasti della tastiera a mente, ma devi anche sapere a cosa corrispondono i simboli, quindi devi essere molto allenato. Sì. Ma l'intorto è una cosa difficile. L'hai preso da Captain Blood quello, vero? No. Un pochino, no, beh, sì, cioè una icona dello spermatozoo, sì. Hai anticipato l'Exorcist Larry Magna Cum Laude con quel gioco. Pensa a te. Non ci ho giocato, com'era? Ah, uno schifo, però perché i dialoghi sono basati su un minigioco con lo spermatozoo, però tu l'hai anticipato con un minigioco. Vedi? Hai anticipato allora un gioco intero. Sono veramente un pioniere. Ma infatti... E infatti, niente, direi, hai qualcos'altro, qualche altro scoop da aggiungere? Vorrei chiedere scusa a tutte le persone che ho offeso durante questa intervista. Non noi volevo... tre, no, non è niente. No, gira. No, veramente. Sicuramente ho fatto la figura del porco sciovinista e politicamente scorretto. Ma, sì... Sì, dai, no, sto scherzando. No, è che stavo cercando la parola per dire maschilista, però hai già detto tutto te, quindi... No, vabbè, sì. Ma non è vero. Eri un adolescente, tutti gli adolescenti... Sono hai così. Solo raccontato le tue, diciamo, esperienze da un adolescente inizio programmatore. Non penso sia una cosa così scorretta. Alla fine... Sì, beh, ragazzi... Questo non hai realmente insultato nessuno. Cioè, ecco. Se tu a 30 anni fai un gioco dove c'è maschilismo, razzismo e cose così, allora ok, ma se allora fai sì, sei infatti, allora un adolescente comunque della MTV Generation. Diciamo anche una cosa, poi finisco sul serio perché mi rendo conto di essere stato lievemente prolisso. No, vabbè, meglio, più cose ci sono meglio, eh. Anche perché adesso riscomparirai nelle tue ceneri, araba fenice, sì. Vero? No, o come il cuoco di Monkey Island 2. Questa è piaciuta questa, eh? Sì, perché mi vengono in mente 20 minuti a farsi rincorrere a tornare a casa. Cos'è che volevo dire? Ah no, no, me lo sono dimenticato, ragazzi. No. No. Stavi dicendo che il cuoco di Monkey Island 2 è un porco sciovinista. No, mi stai confondendo, dai. che in realtà, cos'è, quello, ecco, quello che volevo dire è che erano comunque tempi molto diversi. Cioè, non c'erano i commenti di YouTube in cui non si fa altro che trovare razzismo o una frase scorretta in qualsiasi cosa venga detta, per quanto sì. Possa essere vera. C'è sempre qualcuno che vuole, mi sembra che ci sia sempre qualcuno che vuole trollare o che voglia proprio in qualche modo sentirsi offeso. Ma anche criticare. Sì. No, se ve, se un video... criticare in modo malevole, diciamo, se un video raggiunge le 20.000 visualizzazioni arriva, arrivano automaticamente qualsiasi tipo sia il video, anche se non è musicale, arriva qualcuno che deve trovare un commento da cui iniziare un flame. Sì. Sì, però più che altro è lievemente diverso quello che stavo dicendo, che proprio secondo me, cioè almeno quello che vedo io da come funzionano le cose su internet, che è anche la ragione per cui non ho Facebook, non posto più su forum, cerco di tenere un profilo veramente basso, è che mi sembra che ogni pretesto sia buono per sentirsi offesi e scatenare un vespaio, un putiferio, perché qualcuno ha detto qualcosa di sbagliato, e sembra sempre che ci sia il bisogno di ricondurre tutto a qualcosa di offensivo, di razzista, soprattutto per il razzismo. Mi spaventa come ogni persona riconduca al razzismo ogni comportamento, che anche innocente che si possa avere. È una forma di censura autoindotta, secondo me. E l'esempio più eclatante è quello di Wikipedia. Wikipedia è un posto in cui, se qualcuno dice qualcosa di anche lievissimamente scomodo, subito arriva la mafia dei moderatori. Non dirò che bello. Non dirò i nazisti perché lo dico io di solito. No, anche perché quella lì è l'applicazione della legge di Godwin che dice che man mano che un litigio su internet avanza, la probabilità è che qualcuno tiri fuori i nazisti aumenta esponenzialmente. sì, il nazista è più gettonato di figlio di puttana ormai. Quindi... vabbè, nazisti è meno offensivo di figlio di puttana, è comunque offensivo. No, io uso più figlio di puttana che nazista. Vabbè, figlio di puttana è... figlio di una puttana nazista. Ecco. È perché abbiamo superato, siamo quasi alle 10 di sera, possiamo iniziare a parlare veramente da taverna. Siamo fuori fascia protetta. Sì, adesso siamo a modalità taverna. Comunque questo, cioè, quindi in un momento di... cioè se i giochi della Pastore, se mettiamo che io anziché essere nato nell'82 fossi nato nei primi anni 90 e avessi fatto uscire i giochi della Pastore un paio d'anni fa, ci sarebbero stati sicuramente persone infinitamente più offese di quello che ci fu al tempo. Ricordo che a Sim Brother ci giocarono e trovarono fantastico anche diverse ragazze, un discreto numero di ragazze trovavano. Adesso ti insultano. Adesso non so se mi insultino o se mi insultino dei ragazzi che vogliono apparire sensibili dicendo guarda questo porco. Succede proprio questo, ragazzi che si vogliono sentire centro d'attenzione iniziano a insultarti per... Questa cosa che poteva essere a livello personale, a livello del faccia a faccia in tempo, adesso traslato su internet cresce in maniera spropositata. I giochi della pasta usciti adesso sarebbero molto molto diversi, sarebbe molto meno, probabilmente ci sarebbe molto meno da ridere, probabilmente mi vergognerei un po' di meno rigiocandoli. Però una cosa che mi piace di quei giochi è che sono veramente spensierati. Veramente spensierati, simbolo di un'età che per me non c'è più, ma non è che abbia percepito così. Scusate, sto facendo bel mentale, però... Riccardo, che verso fa? No. Eri tu? Cosa? Che hai ronfato per 20 secondi. Spero di no. Vabbè. Comunque, insomma, questa è l'idea. Diciamo che non mi piace più tanto internet come adesso. Comunque, sì. Game making. Poi, per fortuna, che ci sono persone che se ne fregano e vanno per la loro strada. ed è quello che mi sento di suggerire a tutti quelli che programmano. E va, se ne fregano, vanno per la loro strada, un giorno cresceranno anche loro e non gliene fregherà più niente, però saranno felici di aver fatto sorridere un po' di persone. Ecco, secondo me il game making è questo, cioè il game making chiaramente non professionista. Sì, sì. È quello di dare dei momenti di divertimento a sconosciuti e magari trovarci degli amici. Questo secondo me è una cosa fantastica. Ben più di qualsiasi soldino fatto con lo server, che per carità ci sta anche. Però cioè, è una cosa che lascia un po' il tempo che trova. Quindi io dico, fatelo prima di tutto per voi, perché veramente i fan arriveranno, ecco, non saranno quanti ve ne aspettate, non ci sarà sempre qualcuno che romperà i coglioni, però voi avete fatto quello che vi piace e nessuno vi può dire niente. Ho finito. Hai detto un sacco di cose che mi saranno utili. Sì. Sembravano consigli detti a me anche in parte. Ma dico, sono i consigli che un vecchio squareggione dà le nuove leve. Verso vecchio, non sei ma tanto più vecchio di me. Comunque, sì, diciamo che sei. Abbiamo fatto ufficialmente il passaggio di consegne che tra un po' anch'io dovrò fare a qualcuno, perché anch'io ormai sono da troppo. No, però sono 5 anni che sono qui, non ho combinato niente, mi sa che tra un po' anch'io passerò al testimone, anche se da Kug l'ho ricevuto tardi, l'avrò per poco. Vabbè, ma poi per carità, cioè, poi si può sempre continuare. Adesso, se non altro, un po' di, cioè, la vostra creatività, quella che mettete, soprattutto quelli che fanno gli adventure, che comunque sanno scrivere, sanno far ridere, sanno creare storie, non è che la possono buttare solo sui videogiochi. Quindi si può fare un sacco di altre cose. Ah. Io lo dirò tra i denti, perché non voglio che si sappia, io ho scritto un libro. Però. L'ho letto prima. Sì, l'ho letto prima su un blog metal che c'è scritto. Va bene. Ah, non lo conosco. Ok. Però comunque sì. Quello lì doveva essere un videogioco, non lo è stato, è stato un libro. Ci si ricicla, e anche nel lavoro, se deciderete di non continuare la carriera di game maker, anche nel lavoro, il fatto di essere stato un game maker, è qualcosa che vi resta comunque. Qualcosa che vi dà una marcia in più dal punto di vista, secondo me, dell'umanità. Perché colui che fa i giochi, colui che cerca di far divertire le persone, è una persona che ha una marcia in più. Quindi, cioè, una persona che si dà come missione quella di donare un sorriso, scusate se parlo con un teleton, però ha veramente una marcia in più. Sta comparendo il numero in sovrappressione per le donazioni. Fate le donazioni a me, perché vi ho donato un sorriso con i giochi della pasta, ragazzi. E ci compriamo i sigari. Esatto. Finito il secondo. Bella. Questo no, l'hai questo... fumato proprio. No, ma questo è il colto, ragazzi. Mi sa che facciamo finire la scorta di sigari così. No, vabbè, no, quello è sempre il mio umido, è sempre ben pieno. Ecco, prima che mi scordi, volevo dirti, prima parlavi di com'è adesso il popolo di internet. 10 anni fa c'erano i giochi della Pastorat. Guarda cosa c'è adesso. Scrivi su YouTube Grezzo, dopo, non adesso. Scrivi su YouTube Grezzo 2 e preparati a piangere. Vabbè. Perché se tu devi pentirti di quello che hai fatto 10 anni fa, come dici te, cioè pentirti, devi diciamo rimanerci un po' così, e secondo me non dovresti, pensa a questo qui tra 10 anni, guardando sta cosa, cosa dirà. Si pentirà. Ma è un clone di Doom. Sì, però è una mod di Doom piena di bestemmie dove ammazzi personaggi famosi, cristiani, preti pedofili, ed è piena di bestemmie e riferimenti al cristianesimo. Ma ragazzi, ma l'insulto al cristianesimo è stato sdoganato. Ma sì, ormai fa ancora ridere. Cioè, quel coso è uscito un mese fa, l'hanno scaricato migliaia di volte, è ormai dappertutto. Però ti dico, appunto, tu eri creativo, quello no. Quindi... Sì, infatti. Utilizza un metodo, diciamo, per far ridere abbastanza. È abbastanza, cioè sto dando un'occhiata. È abbastanza più di... Non è un gran merito. Cioè, sì, è una persona immatura ride quando sente le bestemmie. Adesso esatto. Io ci ho giocato un'oretta, ho riso per 5 minuti, poi dopo è sempre uguale, bestemmia, non fa più ridere. Sì, utilizzo un metodo, diciamo, fisso per far ridere, spera di continuare, solo che dopo un po'... Sì, comicità poi. Diciamo che è il trash che ti fa ridere un po', perché dai, la bestemmia è trash. E vabbè. Diciamo che è quel genere di persone che quando dicono una barzelletta o fanno una battuta, non devi assolutamente ridere, perché se ridi anche solo una volta, quella battuta la ripeto una vita. Però, vabbè, insomma, è un altro modo, dai, è un altro modo di far ridere, una cosa completamente... Non mi sento, cioè, sì, è grezzo, come dice il titolo. È una fantastica avventura. Sì, è trash, però, sinceramente, de gustibus, ragazzi. Io, sì, sì. Io probabilmente avrei fatto, non l'avrei mai fatto una cosa del genere. Perché si vede che a me piace complicarmi la vita e cercare di far ridere in un modo più diverso. So che non sarà mai una cosa mainstream la mia, se vogliamo, perché ci rideranno solo una piccola percentuale delle persone che ridono per Grezzo 2 o quello che c'era al tempo, perché non è che anch'io ricordo al tempo dei giochi molto, molto simili a quello, però insomma c'è modo e modo per divertirsi. Non possiamo certo negare a una persona che si diverte con queste cose di divertirsi in questo modo qui, quindi... Sì, sì, però il paragone che dicevo è quello. Comunque tu hai fatto qualcosa che per la scena dei videogiochi italiani è stata comunque importante. Quello è una cavolata, per dire. Quindi sì, sì, no, sicuramente. Però... Non devi, come dicevi prima, quando riprovi i tuoi giochi non devi sentirti mortificato. Non è che mi mortifichi perché mi senta in colpo in qualche modo, è proprio... Più che mortificazione, veramente un imbarazzo, perché dice, mamma mia, come ero puerile, ecco. Vabbè, sì. Cioè, ragazzi, perché sono quelle cose tipo le foto che ti fai quando sei ubriaco, il giorno dopo le vedi e ti porti la mano sulla faccia. Sì, sì. Questa è la sensazione, poi... No, non mi sento di aver fatto, cioè, ci sono persone che potrebbero travisare le mie cose come offensive in qualche modo, ma l'intenzione non è mai stata in alcun modo offensiva da parte mia, quindi veramente ho la coscienza pulita. Però, cioè, vedi queste cose, insomma, senti, è proprio uno sfigato, ecco. Quindi anche come game maker ti volevo ringraziare, perché comunque te non ci credi, ma sei stato veramente una figura importante nel panorama italiano per vari motivi, perché hai dato un nome a quello che facevi, perché hai avuto una produzione molto ampia, non ti sei specializzato solo su un genere, facevi quello che ti piaceva, ci sono tanti punti a tuo favore. Beh, ragazzi, mi state commuovendo, veramente, no, grazie. L'unico peccato è che proprio che adesso, in questi ultimi 2-3 anni, i tuoi giochi non sono più disponibili, è quello magari, che non è fatica a recuperarli. Però, dai, è una cosa un po' hipster, no? cosa. No, il fatto che non siano, cioè, sapete che hipster di, io, cioè, se vi spiego, se che sei underground, vuoi dire, esatto, se i videogiochi della pasta da oggi al domani diventassero mainstream e tutti ci giocassero, sicuramente qualcuno direbbe: io amavo i giochi della pasta prima che fosse cool. Ah, beh, certo. È la cosa più hipster dell'universo. Con le magliette di Vitruvio. Sì, quello sì. Con la maglietta di Vitruvio anche. Sì, con la maglietta di Gadget. Vitruvio e dietro la maglietta del teschio di Vitruvio. Perché c'era la scenetta tipo Dragon Slayer in cui Vitruvio, cioè, in due frame Vitruvio diventava un teschietto. Oppure c'è anche la maglia di Vitruvio, dove c'è proprio l'uomo vitruviano con la faccia di Vitruvio, quello tuo, attaccato sopra. Sì, c'è anche quello. Avevo fatto anche quello. Solo 1000 copie. Esatto, numerate. Numeratissime. Bene. E niente, possiamo chiudere qui l'episodio. Non è acceso un terzo sigaro, no? No. Bene, bene. Allora, è stato un piacere parlare con te. Già. È tutto mio, ragazzi, torno nelle mie ceneri e... Sì, ti piacerebbe. Adesso che ho i tuoi contatti, io ti tengo d'occhio e ti costringerò a rimettere online i tuoi giochi. Che palle. Va bene. No, seriamente, è stato un piacere, veramente. No, un piacere mio, veramente, mi ha fatto veramente piacere chiacchierare, fare questo viaggio nella memoria, che, insomma, ogni tanto ci può stare. Non sempre, ma fare un tuffo nei ricordi ci può stare. Il clown te lo ricordi adesso? No, ti tornerà in mente dopo. I nostri ascoltatori saranno sicuramente felici di sentire questa puntata, perché ne conosco alcuni. Ne conosco alcuni che conoscono il tuo lavoro. Benissimo. Porgo loro i miei saluti, anche se non li conosco. Potevate scrivermi, ragazzi, però. Vabbè, tu metti pubblico solo l'indirizzo per lo spam, quindi... Sì, infatti... Potevate scrivermi quando non era l'indirizzo dello spam, ragazzi. Vabbè, scusa, cos'è, Terminator, torniamo indietro nel tempo? No, vabbè. Va bene. No, ho capito cosa volevi dire. Ok, quindi possiamo chiudere qui la puntata con Kug della Pastor Art, che saluta i nostri ascoltatori. Saluto tutti, alla prossima volta, ci sarà una prossima volta... Certo sì. Che ci sarà. Rixka 4.0. No, mi sono voluto 4.5. 4.5.1.b. Sì. Ciao. Gira 93. Niente. Ciao grandissimi. No, niente. Da Vice City la linea ancora non è tornata. Scar the Punky. Ciao a tutti, gente. E Vario Punk vi saluta. È stato un onore. Buia!